davanti proprio all'ingresso principale del Tribunale di Torino, dove questa mattina sono davanti al Tribunale 46 compagni già arrestati, opposti agli arresti domiciliari, ommessi alle altre misure negli ultimi giorni, ovviamente, eccetera. I 46 notab ovviamente che sono già dentro questo che si profila come un tentativo estremo di grande ricatto nei confronti della mobilitazione che è ricominciata in valle, perché il giudice Caselli si è addirittura preso lo spazio di tutto il mese di luglio per farne una forma speculare. Praticamente il processo poteva pure chiudersi in due udienze, perché qui c'è da mettere all'ordine del giorno la dichiarazione degli imputati se vogliono accettare il patteggiamento o il rito abbreviato, perché se non ci sono nessuna di queste due misure si va al proscioglimento o soprattutto ovviamente al rinvio a giudizio. Quindi, siccome il rinvio a giudizio è scontato, si fa il processo poi in altra data, ovviamente. Perché prendere invece tutto il mese di luglio se non vuol fare una grande sceneggiatura e soprattutto tentare di mettere un laccio al collo al movimento in valle, in virtù del fatto che qui c'è lo specchietto per le allodole o i compagni sotto processo? Comunque sia, vedremo la risultanza dei fatti già in questa prima udienza. In questo momento sotto il tribunale ci sono almeno 500 compagni di varia umanità, ci sono ovviamente il pullman che è arrivato dalla valle, adesso è arrivato il pullman da Milano. Ci sono le realtà ovviamente qui di Torino, ce ne sono ovviamente le compagini di varia, ci sono i compagni di Ascasasuna, come ci sono i compagni anarchici, come ci sono una delegazione di 10 compagni di Mirafiori, dei Cobas, e ci sono qualche altra bandiera ovviamente tra Sinistra Critica e Rifondazione e quelle anarchiche. Ovviamente campeggiano di più le bandiere notab, come è normale. Ecco, mi sembra che lo spettacolo a cui assistiamo, ecco, qui sotto è stata bloccata la strada da parte dei vigili, quindi c'è stata quasi una legittimazione a questa vicenda, e che non c'è stata una forma di totale ostruzione. Potevano ovviamente impedire che si arrivasse anche qui davanti al portone, tante volte lo abbiamo visto anche a Roma, insomma, giusto per fare un paragone. Io mi auguro che il venerdì prossimo, quando saremo sotto la Cassazione, non ci si impedisca ovviamente di dare testimonianza della nostra non solo protesta nei confronti di quella sentenza ignobile di secondo grado nei confronti dei compagni, ma che si possa rinnovare il processo. Ecco, in questo momento sono state accese le trombe, i microfoni, e si alterneranno tra breve ovviamente varie situazioni per poter indicare ovviamente qual è il motivo per cui qui si sta qui sotto in questa giornata estremamente importante, perché è l'avvio appunto del processo, e che poi, come tu ben sai, come la radio ben sa, magari nel corso di luglio poi possono mancare ogni tanto dei numeri, insomma, in questa vicenda. Ma sono convinto che invece la vicenda della Valsusa non è solamente relegata ormai in valle, ma è la vicenda, come dire, di carattere nazionale, come abbiamo ben visto nelle mobilitazioni che si sono avventurate anche a Roma e che sono riprese largamente in valle. Di più, abbiamo commentato questa mattina, mentre cominciavamo questo presidio, la sentenza che è avvenuta ieri, una sentenza potremmo definirla storica, ve ne parla uno che ha 70 anni ormai e che qui in Italia, pur se sono passati la bellezza di 11 anni dal luglio del 2001, da quella mattanza messicana del 20-21 luglio di 11 anni fa, beh, è una sentenza che ovviamente, pur praticamente non facendo scontare un giorno di galera a quegli assassini, a quei criminali, pone quantomeno indicazione di riferimento, pone, come dire, un moloch nei confronti dei poliziotti che vorranno sempre fare quello che gli pare, lo vediamo tutti i giorni in mezzo alle strade, alle caserme, dentro le carceri, eccetera. E però i 5 anni di esclusione dei pubblici uffici, dovremmo controllarli che cosa significa, ma è sicuramente un capestro, insomma, nei confronti delle dirigenze nazionali. Certo, è una sentenza molto strana, perché ovviamente il capo della polizia è già stato assolto dalla stessa corte, mentre vengono condannati gli altri protagonisti, ovviamente criminali, di quelle due giornate così infernali che hanno fatto il giro dell'Europa, insomma, e che quindi comunque sia è stata da tutti quanti ovviamente apprezzata. La preoccupazione è che ci sia pan per focaccia, ovviamente, che venerdì prossimo si possa invece aggiungere una situazione tremendamente pesante per i compagni, cosa che auspichiamo che non sia. Adesso comincio a passarti un compagno, ti passo Andrea di Ascatasuna, e così ti fagli tu due o tre domande. Va benissimo, grazie Vincenzo. Pronto? Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno, sono già in diretta? Sì, siamo in diretta. Allora colgo l'occasione per salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Onda Rossa. Grazie Andrea. Senti, ci diceva Vincenzo una partecipazione nutritissima stamattina, forse al di là di ogni più rosea previsione, centinaia di persone stamattina a Torino, no? Sì, diciamo che fin da subito è stato chiaro che il movimento affronta questa nuova sfida, che è lanciata su un terreno non consueto, che è quello appunto della repressione, che il movimento giustamente ha delle altre priorità. Però detto questo, l'importanza dell'appuntamento era sotto gli occhi di tutti, quindi la risposta c'è stata. Ci tengo a sottolineare che non abbiamo lanciato chiamate a raccolta, se non quella consueta dalla valle, per cui quando si muovono gli imputati si muove anche la valle di Susa, sono sedi giù due pullman dalla valle, ma soprattutto c'è stato giustamente un tantam mediatico per dire ci dobbiamo essere, visto che questo è un processo che viene istituito in maniera fortemente politica. È la prima volta che la procura, soprattutto la figura di Caselli, la procura di Torino, si è esposta tantissimo soprattutto sul pre-processo, quindi di iniziare una campagna mediatica forte, e quindi a questo punto, come sempre, il movimento non si sottrae, raccoglie la sfida e rilancia. La presenza qua oggi è una testimonianza diretta sul perché non si vuole far passare la concezione per cui esistono due facce del movimento NoTav. Il movimento NoTav ha un'unica faccia che viene esposta sotto il sole o sotto la pioggia in ogni occasione, i momenti facili, i momenti difficili, i momenti caldi, come era la scorsa estate all'indomani dello sgombero della Maddalena, e nei momenti in cui c'è bisogno di ritornare al cantiere di notte, eccetera eccetera eccetera. Quindi questa è la forza di un movimento popolare: non si sottrae alle sfide, ma soprattutto lancia dei messaggi forti e chiari. E soprattutto il messaggio di oggi è questo: non si può pensare di dividere un movimento popolare, non lo si può fare a maggior ragione con un attacco repressivo di questo tipo, che poi vogliamo anche sottolineare il fatto che piano piano questo castello di carta inizia a sgretolarsi. L'abbiamo visto anche con le misure cautelari e le varie udienze del Tribunale di Riesame, che hanno smentito spudoratamente la volontà della Procura. Ricordiamo che la doppia velocità che utilizza la magistratura in questo caso qua è emblematica. Io cito solo un esempio che mi ha fatto molto riflettere. Qualche settimana or sono incontravo i familiari delle vittime delle strage di Viareggio e parlavamo appunto di questa doppia velocità: da una parte i processi che vedono giustamente famiglie di persone che chiedono verità e giustizia vengono rallentati con ogni forma di ostruzionismo tecnico, giuridico, e dall'altra processi come questo che vedono imputati un movimento di lotta reale vengono istituiti in fretta e furia pur di punire e mantenere delle misure cautelari che abbiamo visto essere poi di fatto smentite rispetto al castello accusatorio. Senti Andrea, a proposito di doppie velocità, ci diceva Vincenzo dell'atteggiamento di Caselli per quanto riguarda i NoTav in questo processo e non solo. Bisognerà aspettarsi un'estate piuttosto calda da questo punto di vista, quindi non molleranno la presa, immaginiamo. Ah, ma assolutamente, quello lo sappiamo bene, anche perché voglio dire, Caselli doveva andare in pensione, ha chiesto in qualche modo di cambiare anche i regolamenti pur di rimanere in carica per altri due anni. Parliamo anche di una figura che ha dimostrato negli anni di in qualche modo bramare l'esposizione mediatica, sembra più bulimico rispetto ai titoli di giornale rispetto al proprio lavoro. Detto questo, è evidente che i mesi estivi sono mesi caldi in tutti i sensi, però ci tengo anche a sottolineare una cosa, che comunque a fronte di questo atteggiamento abbiamo una determinazione in valle, tale per cui ad esempio questo cantiere è un cantiere dove ancora non si vedono al lavoro gli operai, è un cantiere che non ha fatto altro che distruggere per l'ennesima volta un territorio, tirare giù alberi, spianare e in qualche modo simboleggiare quello che sono le conseguenze di un'opera così dannosa e inutile, e però al tempo stesso sappiamo che comunque è un campo di battaglia aperto, che il movimento ha la necessità e la voglia di dimostrare giorno per giorno che quel cantiere è un cantiere che, seppur da un punto di vista militare non lo si può prendere, ma da un punto di vista politico è un cantiere molto fragile, perché è inevitabile e innegabile dire che una delle strategie del movimento è anche quella di far spendere più soldi possibile anche solo per custodire uno spazio fisico, se non ancora all'inizio dell'opera. Quindi è un terreno di battaglia, un campo di battaglia. L'estate notava è stata annunciata ormai da circa un mesetto, è iniziata con i più giovani, gli studenti delle scuole medie superiori e del comitato giovani Notav, che si sono dati appuntamento al campeggio a Chiomonte. Il campeggio continuerà fino a metà settembre. Il mese di luglio sarà costellato di iniziative forti e importanti, iniziative di lotta a cui come sempre il movimento invita tutti e tutte a vivere direttamente cosa significa far parte di una comunità in lotta. Quindi l'invito, e ne approfitto attraverso questi microfoni, è quello di dotarsi di un paio di scarponcini, di venire su in Valsusa, che non è un eufemismo dirlo, si vive bene perché si sta all'interno di una comunità in lotta, perché c'è la possibilità di sentirsi parte di questa comunità in lotta, perché c'è la possibilità di sentirsi parte di una lotta che parla a fronte di un no, che è quello all'alta velocità, parla di molti sì, innanzitutto da quello concetto di democrazia dal basso per cui i popoli siano veramente popoli e non sudditi, per cui la gente possa decidere sul proprio territorio e sulla propria vita e avere una prospettiva di un futuro diverso da quello che ci viene consegnato da questo sistema di banchieri corrotti che ogni giorno cerca di calpestare le nostre vite. Bene, a questo proposito direi di chiudere la nostra telefonata proprio raccontandoci, se puoi, quale sarà il calendario delle prossime iniziative dopo la mattinata di oggi, se già c'è qualcosa in cantiere di organizzato che può essere raccontato per radio. Allora, sì, sicuramente l'invito è quello di guardare i siti www.notav.info, www.info.org, dove ci sono rilanciati gli appuntamenti di valle. Si inizierà diciamo il grosso delle iniziative a partire dalla settimana del 14 di luglio e si andrà avanti fino a fine mese con un calendario molto fitto. Ci saranno tante iniziative, alcune che partiranno direttamente pubblicizzate sui siti, altre che partiranno invece dall'auto-organizzazione diretta dei campeggi, proprio per tenere sempre costantemente sotto assedio chi vuole costruire quest'opera. Quindi l'appuntamento che do a tutti e tutte è quello di iniziare a organizzarsi per venire su anche solo qualche giorno a Chiomonte, al campeggio resistente, a partire dalla seconda metà di luglio. Ci sarà tanta carne al fuoco. Benissimo, Andrea, ti ringraziamo, un buon proseguimento di giornata e di manifestazione. Allora, grazie mille. Un abbraccio a tutti e tutte e ti ripasso Vincenzo. Perfetto, okay? Ciao. Ciao, ciao. Marco, allora adesso ti passo uno dei compagni di Milano che sta seguendo ovviamente sia la vicenda presente oggi, sono venuti con un pullman qui, sia la vicenda ovviamente di venerdì prossimo, che sai che a Milano faranno un'altrettanta iniziativa parallela con quella di Roma. Adesso te lo passo. Benissimo. Pronto? Buongiorno, ciao. Ciao. Allora, siamo in diretta, direi di cominciare intanto raccontandoci un po' questa trasferta torinese che avete fatto da Milano, insomma, come quanti siete, come vi siete organizzati, quanto è sentita la mobilitazione no TAV anche in quel di Milano? Sì, guarda, ti dico subito, noi come ZAM, Lambretta e vari collettivi che gravitano intorno a noi abbiamo deciso di fare un pullman che ha portato qui a Torino una quarantina di persone. La lotta no TAV a Milano è molto sentita, nel senso che quando ci sono stati gli arresti è una delle città che ha messo in campo una serie di mobilitazioni sia di piazza che di assemblee molto molto partecipate. Milano è anche una delle città che ha avuto più misure cautelari e gente in carcere per un lungo lungo periodo. Oggi siamo qua per questo processo, questo tentativo da parte della magistratura torinese di dividere questo movimento che è assolutamente unitario, nel senso che le pratiche vengono sempre condivise nelle assemblee dei comitati, e questo tentativo di dividere in buoni e cattivi, che insomma è un tentativo abbastanza ricorrente. Oggi è la prima tappa, penso che questo processo dovremmo continuare a seguirlo con grande attenzione e partecipazione, perché è molto importante. Eh sì, oltretutto andrà avanti ancora per un bel pochino, sì. Come ci credo proprio di sì, visto il numero di imputati. Eh sì, come ci raccontavano prima. Senti, quest'oggi a Torino, poi ci diceva Vincenzo, fra una settimana, in concomitanza con quanto accadrà qui a Roma alla Corte di Cassazione, altre iniziative per altri processi che però insomma si vedono sempre legati allo stesso filo rosso in quel di Milano. In quel caso come state procedendo? Allora, ti dico, noi venerdì prossimo faremo la proiezione di Diaz in Piazza Vetra dalle 7:30 in poi. L'appuntamento di Piazza Vetra a Milano è diventato un po' una, com'è che si può dire, un must, perché è il, se non sbaglio, il quarto anno che facciamo un'iniziativa del genere. Negli anni passati c'era stata musica, graffiti, proiezione di documentari e così via. A Milano la memoria del G8 è ancora molto forte, anche perché devo dirti che alcuni degli imputati del processo ai 25, cioè quello per i manifestanti accusati di devastazione e saccheggio, sono compagni di Milano. Non so, ieri è uscita questa sentenza della Diaz, abbastanza in attesa, nel senso che comunque penso sia un evento storico che tutta il gotha della polizia italiana venga condannato, anche se poi non sconteranno un giorno di carcere, tutto sommato non penso che non ce ne freghi nulla, perché diciamo che il carcere non è quello il nostro problema, certo. Esatto. Però penso che nelle stanze del Viminale ci siano musi lunghi e un po' di terremoto in questo momento. Quello che importa a noi, al di là della Diaz, che tanto il valore storico per noi è sempre stato chiaro sin da quella notte, quello che ci interessa adesso è il processo ai manifestanti, cioè le persone che rischiano decine di anni di galera per, non so, qualche vetrina rotta, mentre chi ha torturato, spaccato teste va praticamente impunito. Quindi dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione almeno fino a venerdì, e poi ovviamente a seconda della sentenza, secondo me, il livello di attenzione dovrà essere ancora tenuto molto alto. Senti, comunque anche per quanto riguarda Milano, insomma, ci sembra di capire che nonostante l'estate ormai sia esplosa, si continua ad avere un livello di mobilitazione e attenzione molto alto su questi temi ed altri, insomma. Sì, abbastanza, anche perché noi comunque abbiamo già vissuto un processo per devastazione e saccheggio, che è quello che ha fatto un po' scuola come giurisprudenza, che è quello per gli scontri dell'11 marzo 2006 in Corso Buenos Aires al corteo antifascista contro la manifestazione della fiamma tricolore. E lì la gente con il rito abbreviato ha preso 4 anni di carcere come condanne definitive passate in Cassazione, e a Milano è stata un'esperienza abbastanza dura e anche formativa sullo studio dei codici, questo maledetto reato tirato fuori dal codice Rocco fascista e così via. Quindi comunque abbiamo una sorta di esperienza e continuiamo ad applicarla anche per il processo di Genova. Eh sì, anche perché poi è servito come esempio per molti altri i processi. Un paradigma è stato, penso, il processo per l'11 marzo 2006. Assolutamente, sono cominciate lì tutta una serie di meccaniche che poi continuiamo a vivere ancora adesso, purtroppo. Va benissimo, ti ringraziamo, anche a te un buon proseguimento di mattinata. Grazie non mille. So se puoi ripassarci Vincenzo lì vicino. Okay. Buona giornata. Un abbraccio, a presto, ciao. Marco, eccoci. Adesso ti ripasso. C'hai tempo ancora? Sì, siamo in diretta ancora, Vincenzo. Allora, ti passo Lele, così ti dice due altre cose oltre a quello che ti dice Andrea, e io ti faccio una battuta. Lele qui sta in attesa, come dire, di essere acchiappato, per cui si fa vedere tutti i momenti, si sta grattando i coglioni. Beh. Adesso te lo passo comunque. Pronto? Buongiorno Lele, ciao. Ciao. Allora, come sta andando qui la mattinata? Abbiamo sentito commenti abbastanza positivi sull'andamento. Ma sì, nel senso che poi sai, oggi è una giornata molto tecnica da questo punto di vista. Ci siamo preparati, i nostri avvocati si sono preparati, ci siamo anche preparati in assemblea dicendo che neanche oggi rinunciamo a far battaglia, no? Abbiamo imparato nella nostra storia che ogni luogo è un campo di battaglia per noi e quindi anche oggi con il linguaggio della tecnica in questo caso si tenterà di smontare il più possibile questo pezzo di teorema anche da quel punto di vista. Fuori invece c'è il presidio molto partecipato e io che insomma ne ho visti molti qui fuori, devo dire che questa volta persino le vie circostanti qua al tribunale sono chiuse, sono pedonali e rappresenta un po' la forza del movimento Notave, l'aspettativa che c'è nei confronti del movimento. Nulla, aspettiamo di vedere come finisce questa prima giornata, ce ne saranno altre 15 e vabbè, la cosa di cui siamo certi da sempre, visto che anche ieri con la sentenza di Genova è tutto, è che comunque la storia dei movimenti e delle lotte nel bene e nel male non la scriveranno i tribunali, ma sarà compito di chi lotta scriverla. Noi ci siamo e non facciamo un passo indietro e quindi aspettiamo, usiamo questa come fase di passaggio tra le tante, resistiamo a tutto e guardiamo in avanti. Senti, le reazioni delle parti avverse, diciamo, della magistratura, della polizia, delle forze politiche che governano Torino e non solo, di fronte a una mattinata come quella di oggi, insomma 500 persone in piazza il 6 di luglio non è cosa di tutti i giorni. Che aria si respira da questo punto di vista nella vostra città? Ma nella nostra città si respira un'aria di soprattutto un insomma, qui direi che il PD è quello che da qui ne deriva, cioè dal PC è un po' l'asse portante, no, di questa città da sempre, chiaramente antagonista ai movimenti chiaramente antagonisti a loro e oggi anche qui davanti al tribunale ben rappresentato all'interno, nel senso che sappiamo anche Caselli, i magistrati e Caselli cosa rappresentano da questo punto di vista. Sono tutti stretti intorno alla cassaforte. La cassaforte è quella del Fortino, è quella del TAV e quindi tentano in ogni modo di difendere questa cosa. Io dico che politicamente sono assolutamente sconfitti e compito nostro è continuare così. Hanno delle reazioni isteriche, però hanno anche il potere per riuscire a far passare tante cose. Noi chiaramente ci impegniamo a fare tutt'altro e li vediamo in estrema difficoltà, tant'è che quello che stiamo dicendo da tempo è che per noi è importante resistere. In questo momento siamo in una guerra, no? Un po' di trincea, diciamo, che ognuno fa le sue mosse perché qui bisogna tenere duro. Il prossimo anno forse ci saranno le elezioni, vediamo chi si prenderà la briga di gestire questa cosa qui, avendo un movimento di fronte forte, sempre più forte e radicato, che sta dimostrando che anche nelle fasi magari così un pochino più di bassa comunque ha sempre tanta forza ed è sempre rappresentativo del territorio, dove veramente lì sta la nostra forza. Quindi per loro loro è difficile, però non, insomma, siamo sempre molto attenti perché insomma qui vogliono difendere, come dicevo prima, una cassaforte molto grossa, politica ed economica, quindi le tenteranno tutte, come probabilmente anche i processi non saranno finiti qui, a parte quelli che già conosciamo. No, no, non bisogna abbassare la guardia assolutamente da qui ai prossimi mesi. No. Va bene Lele, ti ringraziamo e auguriamo anche a te un buon proseguimento di mattinata e di manifestazione. Allora, grazie, un abbraccio e a presto. Ciao. Ciao. Marco, adesso ti passo il compagno ex RSU della Fiat, ex RUS, perché sai che con la dottrina Marchionne è stato completamente azzerato, in modo che gli dici non solo il percorso relativo a perché oggi stanno qui eccetera, ma cosa succede a Mirafiori. Ieri è uscito un'intera pagina sul Messaggero che mette in discussione che la fabbrica che Marchionne vuole annullare è proprio la Fiat di Mirafiori. Eh sì, ne abbiamo discusso a lungo purtroppo nel corso degli ultimi mesi. Posso rapirtelo un attimo che c'è Radio Onda Rossa, voglio fargli passare Vincenzo così ci dice due cose. Pronto? Ciao Vincenzo. Ciao. Eccoci, ciao. Allora telegraficamente, visto che ci dicono che sei molto impegnato, qualche parola sulla situazione che state vivendo lì a Mirafiori. Tante volte nel corso degli ultimi tempi abbiamo parlato di Mirafiori come possibile futura prima vittima sacrificale dei piani di Marchionne. Sembra che siamo giunti a una svolta da questo punto di vista, almeno da quel che si legge sui giornali, oppure no? Dici bene, nel senso che Mirafiori è lo stabilimento, quello secondo noi più candidato a tirare giù la serrana per una serie di ragioni. Altri stabilimenti diciamo che hanno una situazione diversa, nel senso sono stabilimenti più nuovi, con anche un'età media decisamente al di sotto di quella di Mirafiori. Considerando che noi abbiamo il 35% di inidonei e che non si muove una foglia, non c'è nessun investimento a parte le chiacchiere che continua a dire Marchionne, è ovvio che Mirafiori, come dicevo prima, non può che essere il candidato numero uno alla chiusura. Questo ovviamente per una certa irresponsabilità non solo dei sindacati firmatari, ma di una politica che non è stata capace di imporre a Marchionne, come dire, di imporre a Marchionne un quadro chiaro di scoprire le carte. Marchionne ha continuato a dire in questi ultimi anni che lui non faceva vedere nessun piano, che insomma bisognava fidarsi di quello che lui a quello in cui lui stava lavorando e che non voleva, come dire, che nessuno mettesse in discussione minimamente quali sono i piani, e quindi oggi stiamo pagando la conseguenza di un'incapacità politica e di un sindacato che si è sdraiato su posizioni aziendali, e ovviamente oggi non siamo in grado, questo sindacato non è in grado di imporre nulla a Marchionne. È ovvio che o parte una protesta dal basso e che tutti gli stabilimenti ovviamente si devono coordinare, perché è impensabile che chiudi qualsiasi stabilimento, è impensabile che si dica meglio Pomigliano che Mirafiori o viceversa. Quindi noi stiamo lavorando perché ci sia, come dire, un certo coordinamento e una certa solidarietà di tutti i lavoratori del gruppo Fiat. Senti Vincenzo, noi questa sera faremo una iniziativa a cui teniamo molto, che prende le mosse da Torino e dalla rivolta di Piazza Statuto ormai 50 anni fa, e che abbiamo voluto chiamare "Che fine ha fatto la classe operaia", di cui discuteremo a lungo ovviamente stasera. Per quanto riguarda la tua città, Torino, ecco, la domanda è ovviamente onerosa e richiederebbe molto più tempo, però possiamo fartela anche a te, ti chiediamo di rispondere in maniera sintetica. Che fine ha fatto la classe operaia torinese, e soprattutto che fine ha fatto e farà e faranno coloro che lavorano a Mirafiori, una fabbrica insomma che è un simbolo non solo di Torino, è stato apparentemente il simbolo dell'industria italiana. Che aria tira non soltanto in fabbrica ma anche fuori? Come sta reagendo la città a questi propositi di smantellamento che si avvicinano a passi sempre più rapidi? Certo che la risposta richiederebbe un pochino più di tempo. Comunque dico così, brevemente ti dico, la classe operaia che fine ha fatto? La classe operaia è una classe che è sfiduciata, smembrata in questi anni con purtroppo scelte sindacali sbagliate e che si sono, come dicevo prima, sdraiate sulla concertazione, sulla partecipazione, ha fatto in modo che la classe operaia in qualche modo venisse anestetizzata. E quindi oggi è chiaro che una presa di coscienza della classe operaia è molto difficile, perché ovviamente c'è anche questa tendenza che non solo Marchionne, ma tutta la classe politica, sia locale che nazionale, non fa altro che, come dire, ammorbidire le scelte che sono state fatte in questi anni. Nel senso, c'è sempre questa tendenza a dire sì, però un po' di luce si vede, bisogna essere, come dire, ottimisti. E quindi c'è sempre questa tendenza anche della classe operaia a sperare che qualcuno, qualchedun altro, diciamo, risolva il problema per loro. Quindi c'è una grande paura, ti dico onestamente, io parlo per quello che riguarda Fiat, ma anche nell'indotto c'è una paura tremenda di perdere anche quei pochi giorni di lavoro. Nel senso, chi è privilegiato e che riesce a lavorare quei 2-3 giorni al mese, ovviamente non ha il coraggio di alzare la testa. Spera sempre che come dicevo prima, qualchedun altro risolva il problema. È ovvio che dire cosa farà la classe operaia. La classe operaia, se dovesse chiudere Mirafiori o qualsiasi altro stabilimento, è in una condizione veramente non solo di grande sfiducia, ma è anche un po' disarmata. Bisognerà cercare di ricompattare quelle coscienze e fare in modo di rimettere in piedi iniziative di lotta capaci di far cambiare le posizioni a chi in qualche modo dovrebbe prendere in mano la situazione. Ovviamente noi siamo molto preoccupati perché abbiamo una classe politica che, almeno da quello che vediamo, è incapace di proporre alternative e non ha nessuna strategia, nel senso che subisce tutte le posizioni di tutti i governi. Nel senso, prima si dava la colpa a Berlusconi, ma adesso Monti, ovviamente il governo dei banchieri non viene messo in discussione minimamente, ma tutti, compresa quelli che si definiscono partiti di sinistra. E il processo di terziarizzazione della città comunque non è riuscito a risolvere i problemi della deindustrializzazione, insomma, da questo punto di vista. No, assolutamente, qui non c'è nessun, ma poi il processo, qui non c'è, i processi se ne vedono ben pochi. Qui io Te lo chiedevo perché da lontano qui da Roma, sai, siamo stati spesso, abbiamo visto tanti articoli di giornali, tante inchieste sulla città che cambiava, sui servizi, eccetera, eccetera, però ecco, poi quando si va a vedere il nocciolo. Ma è cambiato sui servizi, cioè la città cosa ha fatto? C'è lo stadio nuovo, cioè si tende a far nascere centri commerciali, sì, la metropolitana, ma alla fine, diciamo, da un punto di vista del turismo magari sono state anche in qualche modo rivalutate alcune aree della città come i Murazzi, come il Quadrilatero, dove sì, da quel punto, ma il problema è che non ci sono quattrini, nel senso che la città è chiaro che patisce e in qualche modo è coinvolta anche nella perdita dei posti di lavoro, perché ogni commerciante sa benissimo che se chiudono le fabbriche, perché poi sai, è una conseguenza, chiude, certo, la Fiat, chiude l'indotto, anche gli esercizi commerciali non è che possono pensare di andare avanti solo con i turisti. Quindi noi la vediamo abbastanza drammatica la situazione. Ho capito. Va bene, Vincenzo, ti ringraziamo, anche a te un buon proseguimento di mattinate e di manifestazione. Non so se c'è ancora Vincenzo di Roma, sì, lì da quelle parti. Okay. Spero di esserti stato utile, perché sentivo poco, magari se sì, sono stato un po' chiaro. Comunque. No, noi abbiamo sentito perfettamente, per fortuna. Ti ringrazio molto. Grazie a te, a presto. Ciao. Ciao. Marco, allora, qui davanti a me c'è una figura storica di un vecchio compagno oggi in pensione della Fiat, dei tempi eroici di cui stasera via Villa Mercedes si fa un remake su 50 anni di Piazza Statuto. Ovviamente lui non c'era a Piazza Statuto, ma si è fatto l'osso duro ovviamente di tutte le battaglie degli anni 70 sia a Mirafiori che a Rivalta. Lui in particolare ha lavorato a Rivalta. Si chiama Dino, eccolo qui, fai le domande benissimo. Che vuoi. Ciao. Pronto, ciao Dino, buongiorno. Dimmi tutto. Allora, e anche a te, insomma, non so se hai sentito Vincenzo, noi stasera abbiamo questa iniziativa per il cinquantenario di Piazza Statuto e visto che siamo in collegamento con la città che è un po' è stato il simbolo dell'industria in Italia, anche a te, come abbiamo fatto col nostro interlocutore precedente, ti chiederemmo che fine ha fatto la classe operaia. Beh, insomma, è una domanda da $1 milione, però che aria ti a Torino e soprattutto che cosa stanno pensando le tante lavoratrici e lavoratori che in questi giorni vedono a rischio il proprio posto di lavoro, vedono un futuro sempre più grigio e privo di sicurezze. Niente, guarda, di Piazza Statuto io, anche perché non ero a Torino, io in quel periodo là si parla del 61. Sì, e quando hanno incendiato la sede della Vela che aveva firmato un contratto, il contratto con la Fiat. Di quello che posso parlare è dal 69 al 79, finché la Fiat non mi ha licenziato, io sono anche uno dei 61 licenziati della Fiat. Questo te lo posso raccontarti. Lo stato adesso del movimento all'interno della Fiat, il movimento purtroppo non c'è movimento in Fiat, c'è questa paura di perdere il posto di lavoro, non è come il passato, ecco. Nel passato c'erano una serie di avanguardie che sono maturate all'interno della Fiat, e quindi una forza maggiore. Oggi purtroppo non c'è la stessa situazione, una situazione di stasi. Sì. Non ho contatti con gli operai, anche perché credo che dal 79 ad adesso i ragazzi che erano in contatto, la nuova generazione che è entrata nel 78, credo che sarà ormai quasi tutta fuori, per cui sono fuori dal giro fare un'analisi di quello che succede all'interno di Mirafiori o di Rivalta è un po' difficile. Al limite posso andare a contattare se c'è ancora qualcuno in Fiat, le vecchie avanguardie che non sono stati licenziati in quel periodo lì, nel 79, e mandare un'email lì a Radio Antarossa con dei dati più precisi, ecco. Guarda, questa è una cosa che possiamo sicuramente fare nel futuro, ecco, però diciamo così, per quanto riguarda la mattinata di oggi, da quello che tu ci dici, anche se ormai è da un po' che non stai all'interno, ci sembra di capire che in qualche modo le mobilitazioni che ci sono, per esempio quella di stamattina contro la TAV e tante altre, però in qualche misura non riescono a entrare nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, insomma sono tutti luoghi questi dove vige a questo punto più che altro la paura. Guarda, io ho notato, l'ha detto Masi, mi trovavo per caso passare con il pullman e ho parlato con Masi, che sentivo ieri al telegiornale che ormai ha dichiarato fallimento, gli è stato dato, per cui la gente, gli operai che da 2 anni continuavano ad occupare la fabbrica, non soltanto la fabbrica ma il quartiere, infatti c'è la deviazione dei pullman di là perché non possono circolare. La De Tommasi, la carrozzeria che era poi Pininfarina, sì, no? Gli operai che lavoravano alla Pininfarina l'avevano praticamente mandati alla De Tommasi già con questo progetto in testa, no? Di dichiarare poi la De Tommasi fallimentare, quindi licenziare mi sembra circa 2 o 3 mila dipendenti, cioè mi sembra un 2 mila erano come dipendenti nell'ex sede Pininfarina, ma anche la Pininfarina no, c'è parecchio soffoglio, un amico che lavora all'interno, che è un impiegato di alto livello, però anche lui sta rischiando no, il posto di lavoro lì alla Pininfarina. No, della Fiat guarda, non ti posso mandare, ripeto, ti posso mandare a giorni, ma sul momento non riesco a darti delle notizie precise. Va bene. Fare come una volta che si lanciavano degli slogan per se non mi sembra giusto, anche se movimento non ce n'era, no, per dare uno scossone alla gente, non è credo il momento oggi. Ho capito. Va bene. Volentieri avrei voluto darti delle notizie più precise. Sarà per un immediato futuro. Noi iniziamo a sentire con sempre più difficoltà visto che sono cominciati gli interventi dal palco. Ti ringraziamo a questo punto, Dino, se puoi ripassarci Vincenzo lì vicino. Va bene, ciao. Marco, allora adesso mi sto spostando su uno dei lunghissimi viali qui che delimita il tribunale, non sto cercando come si chiama questo viale, ma lo chiederò a qualcuno, perché come tutti i viali di Torino non solo sono di grande viabilità ma ci passano anche i tram, e quindi ci si è messo in mezzo alle rotaie e quindi si è bloccata questa circolazione, pure questa arteria è bloccata qui davanti. Ti do alcuni riferimenti invece rispetto al processo, è sceso qualcuno che era sopra. In questo momento il processo è interrotto, riprenderà tra circa mezz'ora, un'ora, in virtù che gli avvocati, come era noto, insomma, hanno posto una quantità di eccezioni preliminari, come si dice in gergo, e che ovviamente dovrà dipanare sia il PM, poi dovranno essere risolte direttamente dal GIP dentro questa situazione. E sembra, io non ti so dire ancora notizie precise perché verrà dopo, che uno o forse un altro, ma uno sembra sicuro, tra gli imputati pone la richiesta del patteggiamento, che mi sembra un'assurdità, un'idiozia, una stronzata, come si dice, che non si fa mai, soprattutto per un processo politico, non so se mal consigliato dagli avvocati, soprattutto dalle pressioni delle famiglie che spesso intervengono. Vedremo se nella giornata questo è confermato, il che depone che ovviamente in processi così larghi, ovviamente non omogenei, di fronte alle vicende note della battaglia in Val di Susa, in cui sono stati infilati ovviamente anche persone che probabilmente non hanno contiguità con la lotta, magari sono andati lì una volta sola, insomma, e che quindi gli è capitato questa montagna addosso, e che in affanno, in mancanza di ossigeno, poi vogliono uscirne a tutti i costi, facendo un danno soprattutto a se stessi, perché i processi politici si fanno davanti alle corti, soprattutto si fanno popolarmente, e quindi questo depone al maggior risultato. Senti, io potrei passarti anche altra gente, ma nell'economia ovviamente del lavoro della radio casomai ti telefono sì. verso la mezza e ti aggiorno, insomma. Ok, così avremo anche magari notizie ulteriori su, sul proseguio del processo, vediamo un po' se ci confermi questa cosa della, del patteggiamento, insomma magari avremo modo di essere più chiari su determinate questioni. E va bene, con te allora ci sentiamo in diretta più tardi, ti chiederei di rimanere un minuto però in privato, per favore. Sì, d'accordo. L'importanza è l'improvviso.